Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Un nuovo studio italiano pubblicato sulla rivista Cortex rivela l'esistenza di un'area cerebrale che permette alle persone dotate di ipermemoria, in grado cioè di ricordare anche i più piccoli dettagli di ogni giorno della loro vita, di datare i ricordi. A Obiettivo Salute la professoressa Patrizia Campolongo, professore di farmacologia della Sapienza Università di Roma e ricercatrice alla Fondazione Santa Lucia, che ha coordinato la ricerca, ci spiega le ricadute di questo studio. Lo studio è stato condotto su una popolazione di rari individui dotati di ipermemoria autobiografica. Cos'è la memoria autobiografica? La memoria autobiografica ci permette di rievocare le esperienze che abbiamo vissuto durante la nostra vita. Tutti noi siamo in grado di rievocarle se sono esperienze a forte valenza emotiva, altrimenti se sono esperienze neutre, dopo un po' questi ricordi svaniscono. Questi individui ipermemori non fanno alcuna differenza tra un evento a forte valenza emotiva e un evento normale, neutro. Per loro non c'è differenza, ricordano tutto. Questo studio ha messo a paragone i meccanismi cerebrali di questi individui ipermemori comparandoli con quelli di individui dotati di memoria normale, quando gli si chiede di richiamare un ricordo, e di richiamare un ricordo che è molto datato, e ci ha permesso di capire che esiste una specializzazione importante di un'area cerebrale deputata al controllo delle funzioni cognitive quando questi individui richiamano queste memorie molto datate. Quest'area è la corteccia prefrontale. Comprendere i sistemi neurobiologici che sono alla base dell'iperfunzionamento della memoria è molto importante, perché finora si è guardata la memoria soltanto dal lato di una ipofunzionalità, ma per capire come trattare un'ipofunzionalità della memoria è molto importante guardare a quegli individui in cui la memoria funziona meglio che in altri. La perdita di estrogeni causati dall'età e dalla menopausa ha un effetto sui muscoli e porta a un calo della massa muscolare, a dirlo uno studio condotto dall'università finlandese che ha analizzato gli effetti del passaggio dalla perimenopausa alla postmenopausa in donne tra i 51 e i 53 anni. A Obiettivo Salute commentiamo lo studio insieme alla professoressa Alessandra Graziottin, direttore del centro di ginecologia dell'ospedale San Raffaele Nati di Milano. Due le grandi cause ormonali, non solo la perdita di estrogeni, ma soprattutto di testosterone e di deidroepiandrosterone, che a 50 anni sono ridotti del 50% il testosterone rispetto ai 20 anni e del 60-70% il famoso DEA. La variabile dipende dallo stile di vita, quanta attività fisica fanno le donne. Quindi il buon consiglio è: signore, rimanete attive, non rimanere con le braccia a vela e la sarcopenia, ma soprattutto cercate anche un medico che faccia una terapia ormonale sostitutiva che includa, se non ci sono controindicazioni, il testosterone e il DEA, perché questo crea sinergia tra attività fisica e supporto endocrino a mantenere in forma massa, performance muscolare e naturalmente anche bellezza e tono di vita. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento al nostro spazio a tu per tu oggi con il dottor Luca Voledo, biologo nutrizionista esperto in naturopatia della Clinica del Cibo di Milano. Parliamo dei rimedi naturali che mettono d'accordo pancia e cervello. Una buona giornata da Nicoletta.